Sì. Thank you. avanti. Frecche? Checco 10? Hola, attenzione 10, K. Che avanti? Avanti, Antonio Assolo. Oh, ciao Antonio, Gian Maria Assolo, mi stavo spazzolando, ti ho sentito e mi sono fermato. Buonasera. Buonasera anche a te, Gian Maria. E che apparecchio c'hai che si assomiglia al bipi del mio che c'ho su? Forte i bipi? Si assomiglia a quell'apparecchio che ho io. Che apparecchio hai? Intec, no? No, è presente lì con lo 2, versione 3 Tesla, quello tutto colorato. Ah, va bene, caspita, quel qua c'è 9.20 Radio 5, va, è una cannonata. Lo credo bene per quello che era costa, ma l'ha detto, io sono staccato qua, ma c'ha 10 bande questo, piccolino, però c'ha 10 bande, è favoloso, la versione 2, però l'altra versione è terza, però questo. Capa. No, già va bene, già, caspita. Hola. Subito. Hola. Un po' di basso. Oh, troppo. Allora. Sto abbassando un pochettino. La potenza di noi, no? Ecco qua, fatto. No, va benissimo, Baggio Mari. Capito. Ti volevo dire una cosa, ma non ho più sentito attore. Ma chi sono squalo? Eia! Siamo tutte le sere, dalle 7:30 quasi, fino alle 8:10 siamo sempre lì, capito? Tutte le sere! Ah, sì, ho capito. Non lo sapevo. Ecco perché prima andavate un po' più presto, ecco perché non avevo più sentito. E adesso siamo entro da quell'ora, così che stavo impegnati, capito? Allora, verso le 7:20, le 7:30, entriamo fino alle 8:05, 8:10, siamo lì, capito? Un po' di chiacchiere e poi chiudiamo, capito? È quasi tutte le sere, e per cui anche Marino insieme, e siamo tutti e tre insolite, va, però ogni tanto gli entrano anche gli altri, dai, qualche volta. Capa, non lo sapevo, è fatto detto, non ho più sentito perché ero abituato a sentirvi in un altro orario, capito? No, sempre a quest'ora siamo noi, durante il giorno non accendo, perché non c'è nessuno con te, non accendiamo nemmeno, qualche volta così mi accendiamo per vedere se c'è qualche propagazione, ma non c'è nessuno e spegniamo il pubblico, capito? Per cui sorvoliamo tutto quanto. Io qua su questo canale è difficile che entri io, non mi è mai piaciuto il canalista della verità, Tommy, adesso stavo spazzolando, ho sentito questa voce e mi sono fermato al giù. Hai fatto bene. Mi ricordo che prima era il 5, così E allora, noi siamo sempre su 23 e non ci muoviamo da lì. Ci hanno bloccato lì e siamo sempre lì, giù, capito? No, già stiamo bene normalmente, tanto perché a fare discorsi lunghi magari non le facciamo lui, però basta come stiamo facendo, capito? Gaffa. Già va bene. C'è un bel segnale qua, in zona Sassari Vecchio qua. Sì, e no. Se 9:20 ci capita. Bel segnale proprio, Gio Mari. Tu pure se 9:23, 9:25 sì, pure. Sa quante vacche sono scese? Con tre vacche sono scese da tu. Sono tre vacche, Cappa, ma va bene, va bene, se non per 20 è una bomba, Già, sono qua in zona del corso, qua corso corso Vicco, in quella zona lì, dai. Già va bene, adesso, dai. Va bene, ma faccio piacere, ti ho sentito, adesso, dai. Chiedo tutto che sto facendo una cosetta, per cui mi approfitto. Ti saluto, faccio piacere, ti ho sentito, buon proseguimento. Saluto di casa, ci sentiamo alle prossime, ciao. Ciao Giomari, ce la risentiamo alle prossime, ciao. Hola chico, attenzione 10, c'è qualcuno? Sono come me del marito. Prima che non salivano perché c'erano le viti mollate, c'erano, siccome questa qua è a viti, c'erano le viti mollate che mi dava problemi, ma non lo fate più. Ma le viti dove? Nella Ringo, questa qua, questa è fatta a viti, questa che ho io sul tetto. Ma dei radiali, che si mettono in radiali? Negativo, proprio lo stilo con le viti. Praticamente, no, il mio non è così. Il mio c'ha... Sì, ha viti, ma di quelle viti in acciaio grosse. Non so com'è quello, ma questo c'ha le viti. Cioè, io in tutti i cosi, tutte le giunture c'ha le... sai che è la meglio che funziona. La Stringazza ha avuto sempre problemi. Se vuole un raio. Ma quella lì, quella che è all'estate? No, quella che c'ho qua è sempre quella che c'avevo da 10 anni. E quella va bene, no? La meglio che va. E poi fin là magari, quando sei più ricco te la cappa. Ma stavo andando, volevo prendere una Venom. Ma dove prendete la cintura? Ma voglio tenere leggere qua, no? Non ne voglio roba pesante. E la Venom va bene, la Venom... Per qualità prezzo al tuo, il virus. Non posso usare scendi di capo in altra gabbissuria, a gatto, cioè. Io devo mettere un'antenna deve funzionare, non devo stare a parlare niente. Cioè la Venom tu la piazzi e va bene. Lo so, c'è un euro di stazionare senza toccare nulla. È fissa, puoi regolare nulla, è fissa. Io non sto cercando un'antenna del genere. Non ha avuto nulla. Ma avrebbero dovuto farle così, le antenne. Cioè se l'antenna bala 27 avrebbe dovuto andare così, invece c'è quello lo stub, cagate. Ah, cosa cazzo stub. Io la congiolo sono salito al quadrato e ho misurato l'antenna, era 1,3 di stazionario. L'ho registrata e l'ho portata a 1,1 in tutti i canali. Già va bene. La voglia. Beh già, io ti devo lasciare, ci sentiamo. Ok. Vai, buon divertimento al tuo. Cerca di lasciare la tazza. Lei ha, se vuoi passare non c'è problema. Se sei solo. Già non sai dove trovarmi. Non sai, ma è vero, non c'è Green Pass, quindi non ci possiamo venire. Non ci può entrare senza Green Pass. Vabbè, perché non è un gabano in Borgia, è libero a tutti. Ok, dai, ci sentiamo. Ciao. Nessuno? Thank you. bene. Non c'è nessuno?